ti voglio proprio dire la tua verità. Da quando ti ho incontrato ho perso la mia età, non mi era mai successo e andare lontano, lontano, lontano. Ti voglio proprio io, la pura verità. Non posso più dormire, e questa è verità. Di prendere e andare lontano, lontano, lontano.